First of all, we have an economic system that no longer works for most people. Per prima cosa abbiamo un sistema economico che non funziona più per la maggior parte delle persone. Poiché non abbiamo risolto la questione del sistema economico, abbiamo adesso una seconda crisi, che è la crisi della democrazia, l'evaporazione della fiducia di molte persone nella democrazia, nello Stato di diritto e nell'universalità dei diritti umani. Per l'estrema destra in Gran Bretagna, e credo anche qui, i diritti umani sono per qualcun altro, sono ciò che è stato concesso ai migranti, ciò che è stato concesso ai criminali. Quindi l'evaporazione della fiducia nella democrazia è il secondo problema. La terza crisi è la crisi del controllo delle macchine, o, come la chiamo nel libro, il controllo degli algoritmi. Quando Cambridge Analytica ha tentato di falsare le elezioni statunitensi, aveva 5.000 dati per ogni elettore americano. Nessuno di noi può maneggiare contemporaneamente 5.000 informazioni su se stesso. Ciò ha dato improvvisamente alle multinazionali e agli stati un enorme potere asimmetrico sugli esseri umani. Quindi questa è la terza crisi. Ho raccontato queste crisi emergere una dopo l'altra, come in una serie, quella economica, quella democratica e quella legata al controllo delle macchine. E quando questa serie ha preso forma, ho cominciato a rendermi conto che quella a cui stiamo assistendo è una crisi dell'io neoliberista, la crisi di quel tipo di sé che abbiamo creato e che le nostre condizioni hanno creato per noi negli ultimi 30 anni. First of all, fatalism. E quali sono le caratteristiche di questo io neoliberista? Prima di tutto il fatalismo. Ci siamo convinti che nulla di quello che facciamo possa cambiare il mondo, perché il mondo è sotto il controllo del mercato. Perché le persone diventano così fataliste? Vi faccio una piccola domanda. Immaginate che vi chieda di cedere ogni decisione della vostra vita a una macchina intelligente. Lei può decidere chi voi amate, dove lavorate, quali abiti indossate, può decidere il futuro dei vostri figli. Persino il governo deve obbedire alla macchina. E immaginate che non vi sia permesso mettere in discussione le decisioni della macchina. E la cosa peggiore che potete fare è cercare di esercitare il controllo sulla macchina. La macchina è più intelligente di tutti gli esseri umani messi insieme e non potete interferire. A questo punto spero che voi mi diciate di andarmene, che quello che ho prefigurato è ridicolo, è un'idea stupida e che vi rivoltereste all'idea di cedere il controllo ad una macchina. Ma se sostituite la parola macchina con la parola mercato, è esattamente quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni. L'io costruito attorno all'obbedienza al mercato ha due aspetti principali. Il primo è il fatalismo. Molti dei nostri bambini ormai credono che l'unico modo per avere successo sia diventare un supermodello o un calciatore di Serie A. Il fatalismo che ti porta a pensare di non poter cambiare la tua vita. Il secondo concetto chiave di questo modo di pensare, che esploro nel libro, è la performatività. È come quando tu vai da Starbucks, ogni cosa è calcolata e di fatto se cominci a comportarti come una persona libera e imprevedibile non ottieni niente. Devi attenerti al copione di Starbucks, ogni giorno della tua vita devi attenerti al copione che viene imposto dalle norme di comportamento del mercato. Il cuore della questione sono il fatalismo e la performatività e credo che per rompere queste catene dobbiamo riscoprire la capacità delle azioni libere dell'essere umano. We have to rediscover the human capacity for free action.